Sezione settima di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre. Pel Chiarone da Civitavecchia, leggendo il Marlowe. Calvi, aggrondati, ricurvi, sì come becchini alla fossa, stan radi alberi in cerchio alla sucida riva. Stendonsi livide l'acque in linea lunga, che trema sotto squallido cielo per la lugubre macchia. Bevon le nubi dal mare con pendule trombe, ed il sole piove sprazzi di riso torbido sovra i poggi. I poggi sembrano capi di tignosi nell'ospitale, l'un fastidisce l'altro da finiti miletti. Scattan su da un cespuglio col guizzo di frecce mancate due neri uccelli. Cala con pigre ruote un falco. Corrono, mentre io leggo Marlowe, i magri cavalli della vettura. Il sole scema, la pioggia freme. Ed ecco, la selva in fosca si orrenda, la selva odante d'alberi e di spiriti, dove, fra strane piante tu strane ascoltasti querele, dove troncasti il pruno che era Pier della vigna. Io leggo Marlowe. Il verso bieco, simile a sogno d'uomo cui molta birra gravi, d'odi ed incesti e morti balzando fra forme angosciose, esala un vapor acre d'orrida tristizia, che sale e fuma e si mesce all'aer maligno, dimostri feconda intorno le pendenti nuvole, crocida in fondo a fossi, grigio ghigna ne bronchi, filtra con la pioggia per l'ossa stanche. Io tremo. Quei pini che il vento e il mare curvaron tanti anni paiono traer guai a me di contro. Che importa, dicon, tendere all'alto? Che vale combatter? Che giova amare? Il fato passa ed abbassa. Ma tu, tu, sughero triste, che a terra schiacciato rialzi il capo, reo gobbo, bestemmiando iddio, perché mi tendi minaccioso le braccia a tue torte? Che colpa ho io nel fato che ti danna? E voi, lunghe nel mezzo al tetro recinto alberelle, corami spioventi, quasi canute chiome, siete alberelle voi? Siete le tre fiere sorelle che aspettaron Macbeth sulla fatale via? Odo pauroso carme che voi bisbigliate coventi di rospi, di serpi, di sanguinanti cuori. Guglielmo, re dei poeti dall'ardua fronte serena, perché mi mandi lugubri messaggi? Io non uccisi il sonno, altri a me spensero il cuore. Non cerco un regno, al mondo io chiedo sol l'oblio. Oblio? No, vendetta. Cadaveri antichi, pensieri che tutti avete aperta una ferita e tutti a tradimento, su, su dal cimitero del petto, su date a venti i vostri veli funebri. Qui raduniam consiglio, qui nell'orribile spazio all'ombra ignave sulle mortifere acque, qui gonfia di serpi tra il fior bianco e giallo la terra, pregna di veleni, qui primavera ride. rida ubriaco il verso di gioia maligna, com'angue strisci, si attorca, snodisi tra i sibili. Volate, volate, canzoni vampire, cercando i cuor che amammo, sangue per sangue sia. Ma che, disvelasi lungi superbo a veder l'argentaro, lento scendendo nel Tirreno cerulo. Il sole illustra le cime. Là in fondo sono i miei colli, con la serena vista, con le memorie pie. Ivi, m'arrise fanciullo, la diva sembianza d'Omero. Via tu, Marlow, all'acque! Tu, selva infame, addio! Fine della sezione 7.